Economia in pagina. Buongiorno, bentornati a questa rubrica dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo della vita, il corpo, le risorse, il cibo, le parole, un viaggio tra i pionieri di un nuovo stile di vita. Il libro è Non sprecare, l'autore è Antonio Gardo. Buongiorno Antonio Gardo. Buongiorno. Non sprecare, quindi, un libro che dal titolo potrebbe sembrare un manuale per utilizzare gli avanzi di cucina, oppure qualche consiglio, qualche istruzione per l'uso. Per risparmiare nella nostra vita quotidiana, il low cost è un po' quasi una moda, un manuale quasi per aiutare le persone a spendere meglio, ma non è solo questo. Che cosa vuole essere questo libro, Antonio Gardo? Beh, se proprio dobbiamo parlare di manuale, è un libro che ha molto a che fare con questa crisi e la vede in modo positivo, la vede come una opportunità e come una grande occasione che abbiamo per rideclinare i nostri stili di vita. Questa è la rivoluzione che ci aspetta e questo è il cambiamento che tutti dovremo fare. Ecco, diciamo all'inizio allora che questo libro è soprattutto un libro di incontri, un libro di testimonianze, un libro di esperienze, un libro in cui molte persone che tu hai incontrato raccontano un po' il loro stile di vita, un loro stile di vita che si distingue dagli altri perché hanno trovato ognuno nel loro ambito qualche formula, non formula magica, ma qualche formula di vita che si distingue proprio per questa attenzione verso il resto del mondo, il resto della civiltà, il resto dell'ambiente. Allora, questi incontri come mai sono nati? Cosa ti ha spinto ad incontrare queste persone? Io ho costruito il libro come un romanzo, cioè come un viaggio tra persone in carne e ossa che già praticano quello che ho definito con un minimo di provocazione l'undicesimo comandamento, appunto non sprecare. E ho cercato dentro di loro il seme di quella che è una resistenza a ciò che invece a noi sembra ineluttabile, consumare, consumare, consumare, laddove queste persone praticano stili di vita che sono stili di vita felici, stili di vita assolutamente possibili per tutti. Sono dei pionieri, ma il mondo a volte cambia grazie a delle minoranze, poi arrivano anche le maggioranze. Ecco, e non si parla solo di cibo, sembra quasi naturale, non si parla solo di ambiente, di risparmio energetico, che ormai anche questo è un punto certamente importante su cui si batte molto, non si parla solo di sprechi pubblici, si parla anche di elementi, diciamo così, essenziali, la vita stessa, la morte, il corpo. Come affrontare questi argomenti secondo questa logica, questa filosofia? Ma io credo che lo spreco sia un furto contro noi stessi, e credo che siamo diventati un po' tutti cleptomani, nel senso che sprechiamo anche senza accorgercene, ritenendo che ciò di cui disponiamo sia illimitato. E la cosa più grave è che sprechiamo innanzitutto le risorse immateriali, i beni più preziosi che appartengono alle persone umane. Pensate per esempio al grande spreco che riguarda i nostri figli, le nuove generazioni, la salute, il corpo. In Italia un quindicenne su tre ha già bevuto di tutto, siamo un paese dove una ragazza su 10 tra i 15 e i 24 anni soffre di anoressia, proprio perché alle spalle di questa malattia c'è un'idea sbagliata del corpo, un'idea narcisista, un'idea in base alla quale il corpo, la salute e dunque la vita non vengono riconosciute come dei beni primari, dei valori da difendere e da proteggere. Ecco, questo è un po' paradossale, perché è questa stessa civiltà che ha il culto del corpo, l'esplosione per esempio della domanda di palestre, di wellness, quindi un culto quasi parossistico della ricerca della salute e del benessere, che però ha anche una concezione forse di possesso del proprio corpo. Per dimostrare di possederlo si deve anche sfruttare in maniera sbagliata, appunto con le droghe, appunto con l'eccesso di cibo, appunto con tanti elementi che debilitano lo stesso corpo, la stessa vita. Quindi siamo in una società paradossale che non rispetta nemmeno certi suoi valori. Siamo in una società usa e getta, dove i valori, prima di non essere rispettati, non sono riconosciuti. A proposito, per esempio, dei consumi, una delle cose che mi ha molto colpito proprio in questa crisi è l'idea che i consumi sono esplosi attraverso dei meccanismi perversi, come quello per esempio di alimentare un uso dissennato delle carte di credito. Il risultato qual è? Che in America abbiamo, per esempio, cito l'America perché in definitiva è l'epicentro della crisi e allo stesso tempo è l'epicentro di questo modello di vita che noi abbiamo importato. In America, dicevo, abbiamo una famiglia mediamente indebitata con le sole carte di credito per circa $10,000 l'anno, quindi una spesa enorme. Allo stesso tempo abbiamo 15 milioni di americani che soffrono di una patologia che si chiama shopping compulsivo, che vanno a curarsi nelle cliniche con gli psicofarmaci. Questo è il modello sbagliato che crea un doppio spreco, lo spreco innanzitutto della salute e lo spreco anche delle risorse materiali, dei soldi, e che mette in discussione oggi, sotto i colpi appunto della crisi, proprio gli stili di vita, qualcosa che non possiamo più permetterci. Oh, sia chiaro, questa mattina sul mio sito nonsprecate.it una signora mi ha scritto: ma diventeremo tutti francescani? E ho risposto: assolutamente no, anzi, certamente dai monaci abbiamo qualcosa da imparare, ma io credo che la nostra rivoluzione sarà quella di rivedere il modo con il quale consumiamo, e rivedere i consumi significa anche creare nuove opportunità, nuove possibilità e riconoscere le cose per il loro valore. Ecco, proprio per parlare ancora di America, dato che hai accennato appunto agli sprechi, alle carte di credito, al consumismo americano, forse si può anche ricordare, lo fai nel capitolo dedicato ai soldi pubblici, che i cittadini americani ogni anno tirano fuori dalle loro tasche $200 miliardi. Beneficenza, una cifra enorme che coinvolge un intero popolo, attutisce i suoi sensi di colpa con l'idea che la fortuna di aver accumulato una ricchezza, magari improvvisa, contenga anche il dovere di un risarcimento collettivo. In testa alla lista ci sono Bill Gates e Warren Buffett. Ecco, è uno straccio di un capitolo appunto del libro Non sprecare di Antonio Gaido. Allora, Antonio Gaido, anche qui una società delle contraddizioni e che fa beneficenza per attutire un senso di colpa, e però è positivo che faccia beneficenza. Beh, gli americani hanno una implicita vocazione a riconoscere laddove sono fortunati e diventano ricchi l'idea di un debito verso gli altri. Questo secondo me è un concetto molto importante, perché è una forma anche, se ci pensiamo, di ridistribuzione delle risorse, è un modo per accorgersi che anche gli altri possono in qualche circostanza beneficiare della propria fortuna. Detto questo, anche in Italia, e questo è un libro molto raccontato girando l'Italia, girando il paese, che è sempre sorprendente quando lo vai a vedere da vicino, abbiamo una rete di volontariato larghissima. Pensate che un italiano su quattro è impegnato nel mondo del volontariato, e abbiamo anche qui delle grandi opportunità, delle grandi lezioni di vita. Io ho scoperto per esempio come attraverso una rete di volontari nata in un'aula universitaria, dove di solito si fanno delle ricerche inutili, ha messo in piedi un meccanismo che consente di recuperare il cibo sprecato, il cibo buttato dai grandi magazzini, dalle grandi reti di distribuzione, soltanto perché magari contenuto in confezioni leggermente ammaccate o prossime alla scadenza. Ebbene, quel cibo viene recuperato in un sistema larghissimo che si chiama Last Minute Market e messo sulle tavole di migliaia e migliaia di persone che evidentemente non possono permettersi il pasto. Ecco, un'esperienza che anche per esempio in Nord Italia, ma penso anche al Sud, quella anche del Banco Alimentare, che proprio oggi ha la sua giornata di promozione con volontari che raccolgono appunto dei doni. Io vorrei, se avviamo verso la conclusione, citare però anche un altro aspetto di questo libro, verso i capitoli finali, dove si parla del talento, dove si parla del gusto del bello, dove si incontrano dei musicisti, dei direttori di orchestra, si incontrano delle persone che dedicano il proprio talento a riempire di bello il tempo degli altri. Questo è un modo forse per dire che non sprecare vuol dire utilizzare al meglio anche il proprio tempo. Sì, Il talento, tra l'altro, è appunto uno di quei beni immateriali che, laddove non lo riconosciamo e laddove non siamo capaci di coltivarlo, rischiamo appunto di sprecarlo. Io ho scelto in questo capitolo un accompagnatore straordinario, perché è, credo, uno dei più grandi geni del nostro paese, che è Claudio Abbado, e mi aveva colpito una sua frasetta nella quale diceva appunto: sono stato ossessionato dal talento e dall'idea di non sprecarlo, sono partito da lì per raccontare la sua storia e sono partito da lì per raccontare anche un paese dove, ahimè, nelle nuove generazioni il talento non viene riconosciuto. L'81% dei giovani in Italia è convinto che per affermarsi nella vita c'è bisogno di buoni rapporti, buone relazioni, qualche amicizia. Ecco, questo è il segno, secondo me, più pesante che ci portiamo addosso di un paese che investe ancora poco, troppo poco, sul proprio futuro. Invece non sprecare è una parola che ha a che fare con questo, con il futuro e con il cambiamento, come opportunità. Come un'opportunità per vivere meglio, come un'opportunità appunto per realizzare una società in cui ognuno venga riconosciuto per i propri talenti, per i propri meriti, e venga riconosciuto il coraggio e anche la diversità delle persone. Questo è un valore di fondo che questo libro ci ricorda, un libro ricordo di Antonio Gardo, che ringrazio di essere stato con noi, edito da Einaudi. Non sprecare, il prezzo sono 16 euro, che non sono soldi sprecati se lo comprate, 170 pagine, lo trovate in libreria e sarà una lettura sicuramente piacevole e interessante. Grazie Antonio Gardo, grazie a quanti ci hanno seguito. Economia in pagina. Buongiorno e bentornati. Abbiamo parlato nella prima parte del libro di Antonio Gardo, Non sprecare. E ora parliamo con Mauro Castelli. Mauro Castelli è stato caporedattore del Sole 24 Ore, è ancora collaboratore del Sole 24 Ore, del suo ultimo libro Grande Italia. Buongiorno Castelli. Buongiorno. Grande Italia, le belle storie che fanno la storia. Sono storie di imprenditori, storie di impresa, seguendo una catena, possiamo dire, di libri che ormai è arrivato al sesto volume. Questo è il sesto volume? Sì, esattamente. È il sesto volume, quindi, di incontri, essenzialmente incontri con gli imprenditori che fanno l'Italia, che tengono alta la bandiera del Made in Italy. Infatti in copertina, in questo libro, che ha una prefazione di Giuseppe De Rita ed edito del Sole 24 Ore, c'è proprio la bandiera italiana. Quindi imprenditori che stanno cercando di sfidare un po' il vento contrario della crisi economica, della difficoltà della globalizzazione. Quali sono i caratteri che uniscono un po' questi imprenditori in questo viaggio che hai fatto un po' in tutta Italia? Ma diciamo che a un certo punto tutti hanno un filo conduttore comune per le diverse sfaccettature di lavoro, quella di voler arrivare a tutti i costi a determinati traguardi, quella di crearsi un mercato, quello di innovare, di produrre. Certo, si parla sempre male di questa nostra industria italiana. In realtà ci sono delle bellissime aziende che a un certo punto fanno ancora grande il Made in Italy. Ecco, si parla sempre male, noi spesso ne parliamo anche bene, nel senso che è un'industria italiana che ha anche molti punti di forza, che è riuscita negli ultimi anni a superare momenti difficili, che si è ristrutturata, ma che, come tutti i processi appunto, deve sempre superare nuovi traguardi. Ecco, in questa presentazione Giuseppe De Rita parla per esempio dei caratteri di questi imprenditori, dice: il primo carattere è la tenacia, quasi la testardaggine. Gente che ha espresso una continua volontà di crescere, che spesso si è messa in testa di vincere ostacoli enormi, che è partita dal basso, contando solo nella voglia di riuscire, che ha fronteggiato e superato crisi industriali anche gravi per non cedere al ritiro dell'attività. Quindi Mauro Castelli, imprenditori testardi, decisi, tenaci, sono questi in fondo gli imprenditori italiani, soprattutto i piccoli e medi imprenditori? Diciamo piccoli e medi imprenditori, ma ci sono anche dei casi di grandi imprenditori che sono partiti dal niente e si sono creati degli imperi. Per esempio? Per esempio, vorrei ricordare uno che ho intervistato da poco, si chiama Salvatore Ruggeri ed è un tipo molto particolare, nel senso che faceva il presidente e amministratore delegato di una multinazionale che venne comprata 8 anni fa da due fondi. Il disaccordo nacque repentino, si mise per conto suo e da 0 a 320 milioni nell'arco di 7 anni. Ecco, quindi sono storie di imprese, di imprenditori, di persone, di imprenditori che hanno saputo innovare anche partendo dalle cose più banali. Pensiamo per esempio a Alberto Bertone sul trono delle acque minerali. Bertone con l'acqua ha creato un nuovo impero. Certo, Bertone è un costruttore, tra l'altro. È un costruttore che 10 anni fa ha deciso di cominciare a commercializzare l'acqua minerale. Ha trovato queste fonti di vanadio, le ha lanciate e nell'arco di 10 anni è diventato il numero uno in Italia. E poi c'è il lusso, il gusto del bello, Norberto Perferretti, per esempio, un simbolo dell'industria del Made in Italy italiano. Beh certo, è uno che ricordo sempre una cosa molto simpatica, lui è l'uomo dei record, anche quello di avere fatto le 3 medie in 6 anni, nel senso che quando pensava di essere rimandato in un paio di materie se ne faceva aggiungere un altro paio, in maniera che si pigliava qualche scappellotto del padre e poi le vacanze erano assicurate. Lui è partito dal niente, assolutamente, faceva 16 anni già il meccanico, nell'industria del padre, certo, che vendeva lancia, e poi dopo ha iniziato così quasi per gioco a costruirsi una barca per conto suo e da lì, a fronte di sacrifici in mano, è riuscito ad arrivare il numero uno al mondo negli yacht di lusso. E quindi un settore destinato appunto a una fascia di lusso in cui in questo periodo, nonostante la crisi, il mercato continua ad essere positivo. Direi che nel lusso in effetti non c'è crisi. E poi c'è chi ha un grande nome legato al passato, Federico Falck per esempio, un grande nome simbolo dell'acciaio che però si è ristrutturato in tutt'altro settore. Sì, ha diversificato completamente nel settore delle biomasse, dell'energia e di quant'altro, per quando ha capito che a un certo punto, soprattutto con il fratello, non c'erano più spazi per l'acciaieria. In realtà poi qui abbiamo un esempio invece di uno che produce acciaio, che è Arvedi, che invece sta guadagnando spazi di mercato notevoli. Quindi anche nei settori classici si può trovare la possibilità di crescere, di innovare, di trovare nuovi sbocchi di mercato, anche aprendosi all'estero, aprendosi alla possibilità che molto spesso viene demonizzata, ma che invece è un'opportunità, se perseguita bene, di delocalizzare. Quindi sono imprenditori che non si fermano di fronte ai confini nazionali. Sì, in effetti è vero, molti non si fermano, molti tengono al Made in Italy, ma altri invece vanno all'estero soprattutto per cercare di compensare un po' i costi. Beh, quindi diciamo una scelta che non è un abbandono, ma è un tentativo di restare sempre sulla cresta dell'onda, appunto, come fa Ferretti, ma anche di trovare nuovi mercati, di avvicinarsi a questi mercati, di portare su questi mercati tutta la logica del Made in Italy. Ovviamente, c'è il vantaggio all'estero, in molti paesi, che a un certo punto il costo della manodopera è molto più basso e quindi compensa anche i costi italiani che sono molto più alti. Ecco, però sempre con questo marchio Made in Italy a tenere banco. Ecco, c'è un punto di questa prefazione di Giuseppe De Ritta che mi piace sottolineare. Dice: il bravo imprenditore, come appare da tutte le testimonianze di questo volume, è soprattutto una persona di alta qualità umana. Non solo perché la tenacia di cui abbiamo parlato è virtù di costanza e fedeltà all'oggetto del proprio lavoro, non solo perché lavorare e lavorare senza aver paura di niente è decisione che comporta qualità individuali profonde, non solo perché le lunghe cavalcate imprenditoriali spesso hanno lasciato scuola e casa e sono possibili solo se si è scoperto il gusto e la sorpresa che umanamente accompagnano la capacità di intraprendere, ma perché, diventando imprenditori, essi non hanno trascurato la dimensione culturale e sociale dell'essere uomini. Ecco, è questo dato di fondo che appunto mi piace sottolineare. Sì, c'è questo discorso di umanità un po' in tutti in questi grandi imprenditori. Ad esempio un Walter Burani, che è già arrivato a fatturare più di 1 miliardo ed è sulla cresta dell'onda in diversi settori, pensa che ha 5 società quotate in borsa, 4 a Milano e 1 a Londra, a un certo punto ha un'umanità che è infinita e poi corre a più di 80 anni, a un certo punto mi ha detto: un carcerato non fa la mia vita, però quella è la sua vita. Ecco, è la sua vita e anche poi, come osserva lo stesso De Ritta nella prefazione, anche la capacità di andare oltre la propria impresa, di mettere a beneficio della solidarietà anche alcune attività, alcune ricchezze, alcune forme proprio di capacità imprenditoriale anche in questa prospettiva. Sì, ho notato che molti sono attenti al sociale, intervengono in solido, ma spesso non ne vogliono parlare. E questo invece andrebbe portato alla ribalta, e questo libro in alcuni casi lo fa, portando alla ribalta appunto queste storie di imprenditori. Abbiamo parlato del libro di Mauro Castelli, edito dal Sole 24 Ore, Grande Italia, le belle storie che fanno la storia. La prefazione è di Giuseppe De Rita, il prezzo è di 25 euro, le pagine sono 300, si tratta appunto di storie di imprenditori. Quante sono, Castelli? Sono 26 storie. 26 storie di imprenditori, tutte da leggere in attesa del settimo volume, forse l'anno prossimo. Grazie a Mauro Castelli, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Grazie a voi.